Sezione ventiquattresima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventiquattresimo. O sodalizio eletto la gran cena del benedetto agnello, il qual vi ciba sì che la vostra voglia è sempre piena, se per grazia di Dio questi preliba di quel che cade della vostra mensa, anziché morte tempo gli prescriba, ponete mente alla sua voglia immensa, eroratelo alquanto. Voi bevete sempre del fonte onde vien quel che i pensa. Così Beatrice, e quelle anime liete si fero spere sopra fissi poli, raggiando forte a guisa di comete, e come cerchi in tempra d'oriuoli si giran sì che il primo a chi pon mente quieto pare e l'ultimo che voli, così quelle carole differentemente danzando della sua ricchezza mi si facean stimar veloce lente. Di quella ch'io notai di più bellezza vidio uscire un fuoco sì felice che nullo vi lasciò di più chiarezza. E tre fiate intorno di Beatrice si volse con un canto tanto divo che la mia fantasia non mi ridice. Però salta la penna e non lo scrivo, che l'immaginar nostro a cotai pieghe, non che il parlare è troppo color vivo. O santa suora mia, che sì ne preghe divota per lo tuo ardente affetto da quella bella spera mi disleghe, poscia, fermato il fuoco benedetto, alla mia donna dirizzò lo spiro che favellò così com'io ho detto. Ed ella, o luce eterna del gran viro a cui nostro signor lasciò le chiavi che ei portò giù di questo gaudio miro, tenta costui de punti lievi e gravi come ti piace intorno della fede per la qual tu su per lo mare andavi. Se gli ama bene e bene spera e crede, non t'è occulto perché il viso ai quivi dove ogni cosa dipinta si vede. Ma perché questo regno ha fatto civi per la verace fede a gloriarla di lei parlare è buon ch'a lui arrivi. Sì come il baccellier s'arma e non parla finché il maestro la question propone per approvarla, non per terminarla, così m'armava io d'ogni ragione, mentre che ella dicea, per esser presto a tal querente e a tal professione. Di, buon cristiano, fatti manifesto, fede che è? Ond'io levai la fronte in quella luce onde spirava questo. Poi mi volsi a Beatrice, ed essa pronte sembianze femmi perch'io spandessi l'acqua di fuor del mio interno fonte. La grazia che mi dà ch'io mi confessi, cominciai io, dall'alto primipilo faccia le miei concetti essere espressi, e seguitai, come il verace stilo ne scrisse, padre, del tuo caro frate, che mise Roma teco nel buon filo, fede è sustanzia di cose sperate ed argomento delle non parventi, e questa pare a me sua quiditate. Allora udii, dirittamente senti, se bene intendi perché la ripose tra le sostanze e poi tra gli argomenti, ed io appresso. Le profonde cose che mi energiscon qui la lor parvenza agli occhi di laggiù son sì nascose che l'esser loro va in sola credenza sovra la qual si fonda l'alta spene e però di sostanza prende intensa e da questa credenza ci conviene sillogizzar senza avere altra vista, e però intensa d'argomento tiene. Allora udii: se quantunque s'acquista giù per dottrina fosse così inteso, non v'avria luogo ingegno di sofista. Così spirò da quell'amore acceso. Indi soggiunse: assai bene trascorsa d'esta moneta già la lega il peso, ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. Ed io: sì, l'ho sì lucida e sì tonda che nel suo conio nulla mi si inforsa. Appresso uscì della luce profonda che lì splendeva questa cara gioia, sovra la quale ogni virtù si fonda, onde ti venne? Ed io: la larga ploia dello Spirito Santo che diffusa in sulle vecchie e in sulle nuove cuoia è sillogismo che la mi ha conchiusa acutamente sì che in verso della ogni dimostrazione mi pare ottusa. Io udii poi l'antica e la novella proposizione che sì ti conchiude, perché l'hai tu per divina favella? Ed io: la prova che il ver mi dischiude son l'opere seguite, a che natura non scaldò ferro mai, né batté ancude. Risposto fummi: di chi ti assicura che quell'opere fosser quel medesmo che vuol provarsi? Non altri ti giura. Se il mondo si rivolse al cristianesmo, diss'io, senza miracoli, quest'uno è tal che gli altri non sono il centesmo. Che tu entrasti povero e digiuno in campo a seminar la buona pianta, che fu già vite ed ora è fatta pruno. Finito questo, l'alta corte santa risonò per le spere: un Dio lodiamo, nella melode che lassù si canta. E quel baron, che sì di ramo in ramo, esaminando già tratto m'avea, che all'ultime fronde appressavamo, ricominciò: la grazia che donnea con la tua mente, la bocca t'aperse, insino a qui come aprirsi dovea. Sì ch'io appruovo ciò che fuori emerse, ma or conviene esprimer quel che credi e onde alla credenza tua sofferse. O santo padre, o spirito, che vedi ciò che credesti, sì che tu vincesti ver lo sepolcro più giovani piedi, comincia io. Tu vuoi ch'io manifesti la forma qui del pronto creder mio, ed anche la cagion di lui chiedesti. Ed io rispondo: credo in uno Iddio solo ed eterno, che tutto il ciel muove, non moto con amore e con disio, e a tal creder non ho io pur prove fisiche e metafisiche, ma dalmi anche la verità che quinci piove, per Moisè, per profeti e per salmi, per l'Evangelio e per voi che scriveste, poiché l'ardente spirito vi fece almi. E credo in tre persone eterne, e queste credo una essenzia sì una e sì trina, che soffera congiunto sunt e teste. Della profonda condizion divina, ch'io tocco mo, la mente mi sigilla più volte l'evangelica dottrina. Quest'è il principio, quest'è la favilla, che si dilata in fiamma poi vivace, e come stella in cielo in me scintilla. Come il Signor, ascolta quel che piace, da indi abbraccia il servo, gratulando per la novella, tosto che il si tace? Così, benedicendomi cantando, tre volte cinse me, sì com'io tacqui l'apostolico lume, al cui comando io avea detto, sì nel dir gli piacqui. Fine del canto 24.